Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre vi ricordo il nostro sito internet radio24.it. Se andate nel profilo dei giornalisti potrete anche dialogare con alcuni di loro. Voi sapete che io ho un blog, si chiama Guardie o Ladri, e lo trovate con qualunque motore di ricerca. La seconda informazione è quella che riguarda la mail unabusoalgiorno@radio24.it, che è molto molto frequentata, per fortuna, dai nostri radioascoltatori, che mandano casi molto spesso personali, e quelli, abbiate pazienza, non riesco né a sostenerli né spesso a rispondere, non per maleducazione ma perché dobbiamo concentrarci sui casi che poi effettivamente facciamo. Allora, la mail è stata raggiunta da una storia abbastanza curiosa. Voi sapete che da anni si discute in Italia dei pagamenti ritardati da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori, si arriva anche a 600 giorni, quindi 2 anni. Questa volta ci troviamo in un caso in cui la pubblica amministrazione non paga per una serie di motivi un privato. Sono 3 anni ed oltre che questo privato ha qualche difficoltà, più di qualche difficoltà, nel ricevere i soldi. Visto che è una situazione che capita spesso, abbiamo deciso di affrontarla attraverso il racconto di questa storia. Il racconto di una storia di un radioascoltatore che si trova in provincia di Livorno, e do quindi il buongiorno a Stefano Grossi. Buongiorno, dottore. Allora, per affrontare questo caso abbiamo chiamato anche un nostro esperto amministrativista, un avvocato tra i migliori in Italia sul punto, ed è un avvocato fiorentino, si chiama Gaetano Viciconte. Buongiorno Gaetano. Buongiorno. Allora, io direi di partire, caro Grossi, dal racconto della sua storia. Allora, io nel 2004 ho stipulato un contratto di locazione con l'Arma dei Carabinieri per l'installazione di un'antenna in onde radio per la trasmissione di comunicazioni uso militare, quindi Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, eccetera. Certo. Dunque, naturalmente il contratto prevede il pagamento di un canone annuale. Il canone era 3.000 euro l'anno. Quindi lei ha affittato dal 2004 questo terreno all'Arma dei Carabinieri. Esatto, io ho fatto un contratto con l'Arma dei Carabinieri. Per 3.000 euro all'anno. Benissimo. Diciamo che all'inizio, il primo anno, il pagamento è stato regolare, però dal primo anno in poi, quindi dal maggio 2005, sono cominciati i ritardi nei pagamenti. Infatti il secondo pagamento è stato effettuato a marzo del 2007, ed era un pagamento di 2 anni. Poi, da marzo del nonostante io poi gli abbia fatto raccomandate, eccetera, da marzo del 2007 siamo arrivati a il bonifico mi è arrivato ieri, quindi oltre 3 anni di ritardo. Ecco, e il bonifico è arrivato verosimilmente, non ci prendiamo meriti, ma verosimilmente dopo che per mesi, perché questo è un caso che abbiamo seguito per settimane e settimane per avere tutti gli interlocutori, dopo che appunto noi stessi abbiamo chiamato chi? L'Arma dei Carabinieri e la stessa prefettura, che pur chiamate ed invitate a comparire hanno preferito declinare l'invito. L'Arma dei Carabinieri ci ha fatto presente che era la prefettura la titolare, dei pagamenti. La prefettura chiamata ha preferito non comparire appunto in radio. Fatto sta che sono tanti gli anni di ritardo, e probabilmente lei, mi corregga se sbaglio Grossi, avrà pensato: ma insomma, ho a che fare con lo Stato e poi con la parte migliore dello Stato dal punto di vista della sicurezza, della garanzia che offre, oltre che di tutela del cittadino, quindi vado tranquillo. Invece così non è proprio stato, mi pare, no? No, assolutamente. Tra l'altro è vero, infatti io l'avrei aggiunto adesso, che effettivamente la cosa strana è che dal momento che vi siete attivati voi è arrivato il pagamento. Certo. Perché altrimenti, secondo me, io credo che avrei dovuto aspettare ancora ancora qualche settimana. Ecco, tra le altre cose, lei ad un certo punto nella sua lettera scrive una cosa interessante. Questa qui ovviamente non è una puntata nella quale noi diamo colpe, assolutamente no. Il punto però è che il sistema, il momento di sofferenza e di crisi è tale che poi sono degli anelli, no? Tutto si regge in questa catena economica e se cade un pezzo come nel domino poi trascina tutto il resto, perché lei scrive nella sua lettera, dice la mia azienda è in crisi di liquidità e quindi se non mi arrivano questi soldi poi corro il rischio io di andare a finire nelle mani delle banche, che con tutto il rispetto per le banche però fanno il loro mestiere, no? Esatto, esatto, infatti io ho, diciamo, sempre sottolineato nella corrispondenza, nelle raccomandate, nelle mail che io ho inviato a centinaia, che la mia situazione da un punto di vista economico è grave e quindi oltre che mi spetta di diritto che questo canone, avevo anche necessità da un punto di vista economico. Certamente, ecco, ma dal punto di vista dell'interlocuzione, lei stava dicendo ho scritto centinaia di mail, avrà probabilmente anche telefonato, lo scrive anche. Assolutamente. Esatto, ma che tipo di risposte aveva? Perché poi i cittadini si arrabbiano perché la pubblica amministrazione, qualunque essa sia, spesso non risponde, vabbè che anche i privati poi non rispondono, però vuol dire la pubblica amministrazione non risponde e questo fa girare parecchio, no? Quello che deve girare ai cittadini italiani, giusto? Certo, certo, certo, anche perché è come una scatola cinese, no? Te non capisci mai, non hai un interlocutore certo. E certo, infatti, purtroppo. Dunque, io diciamo che io credo che i carabinieri effettivamente si siano attivati, si siano dati da fare. Certo, la buona fede è data per scontato, assolutamente. Ovviamente. Penso invece che il problema è da chi effettivamente poi provvede a pagamenti, quindi dalla prefettura. Ok, allora, il caso è chiaro. Allora, prima però di passare la parola all'avvocato Viciconte, un momento perché Grossi aveva un dettaglio da aggiungere. Prego, Grossi. Dottore, allora volevo aggiungere che l'importo del bonifico che ho ricevuto è inferiore a quello che avrebbero dovuto inviarmi. E quindi c'è un importo sbagliato, insomma, diciamo. Esatto. Benissimo. Praticamente loro non m'hanno inviato gli interessi pregressi per quanto riguarda, diciamo, è una parte della fine. Anzi, male. Comunque saranno in ascolto anche l'Arma dei Carabinieri e la Prefettura, quindi senz'altro prenderanno nota di questo. Allora, adesso ringraziamo ovviamente il nostro radioascoltatore Grossi e a questo punto è proprio il caso di dare la parola all'avvocato Gaetano Viciconte. Prego, avvocato, a lei un commento di questa vicenda. Grazie. L'ascoltatore avrebbe avuto a disposizione però in questa vicenda uno strumento giuridico che avrebbe consentito di risolvere il rapporto con l'amministrazione, perché l'amministrazione era inadempiente, quindi non si è avvalso, e le ragioni non le conosciamo, non si è avvalso di questo strumento giuridico, che è quello della risoluzione del contratto. Devo aggiungere però che questo problema dei pagamenti con ritardo da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei privati è un problema generale e in fase di approvazione da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera un disegno di legge, che è il disegno di legge sulla semplificazione, che introduce proprio misure di snellimento dei rapporti fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione per evitare questo problema dei ritardi nei pagamenti. Certo, questo è benvenuto, sarebbe benvenuto, mi pare però di capire che ci sia anche un problema, probabilmente una valutazione che facciamo tra di noi a monte, di risorse finanziarie, perché poi si aspettano anche molti anni, a volte anche mesi, comunque in questo caso possiamo parlare di anni prima di ricevere i fondi che spettano. Beh, qui se ci sono però delle responsabilità in ordine alla mancata programmazione dei flussi finanziari, interviene in genere la Procura della Corte dei Conti, che sanziona appunto attraverso l'attivazione di giudizi di responsabilità, che propone il sanzionamento proprio di comportamenti non corretti sotto il profilo della programmazione finanziaria. Certo, di questi ritardi che possono venirsi a creare. Bene, io ringrazio l'avvocato Viciconte per i suoi chiarimenti, come sempre utilissimi, grazie al nostro radioascoltatore, in regia Pietro La Corte, in studio a Valeria Coffaro e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.